9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, questo mercoledì 3 novembre lo dedichiamo agli americani, ma lo dedichiamo alla lezione che gli americani danno a tutti coloro che disperano e diffidano che la politica dal basso possa cambiare le cose quando le elite politiche non beccano la strada giusta. E quindi, come avete capito, parliamo questo mercoledì delle elezioni del midterm, è inevitabile, e io comincio a modo mio. Oh, say can you see all the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, swords, burst stripes and burst tide, through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gay gallantly streaming, and the rocket's red glare, bomb bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Che, per chi non lo sapesse, è appunto l'inno degli Stati Uniti d'America, perché oggi gli elettori del midterm, con mia grande soddisfazione, vi dirò la verità, dopo anni in cui l'Europa aveva scoperto una specie di salvatore del mondo in Barack Obama, hanno chiaramente inteso che la democrazia si fa dal basso, e siccome le politiche di maggior impatto, soprattutto quelle economiche, le risposte alla crisi, l'esplosione del deficit e del debito pubblico, una controversa riforma sanitaria, non hanno convinto né la base democratica che voleva ancora più sinistra in queste politiche, né tantomeno però la middle class americana, che vede l'esplosione del debito pubblico ma vede che l'economia dal secondo quarter di quest'anno ha iniziato a frenare perché il mercato non crede più alla domanda pubblica fatta per assumere dipendenti del Partito Democratico e pensa a quante tasse verranno in più nel futuro, e a questo punto non partono i consumi, non partono gli investimenti, l'economia privata, come si dice, il cavallo resta fermo, non vuole bere. Di fronte a tutto questo, il senso di queste elezioni è molteplice, lo avete sentito da una Camera dei rappresentanti che era solidissimamente in mano ai democratici con 255 seggi, c'è una sberla paurosa e la maggioranza va ai repubblicani, il Senato che aveva ben 10 seggi, quelli necessari per evitare ogni forma di filibustering nella Camera alta americana, passa. Al momento la maggioranza resta democratica quando restano ancora 2 o 3 seggi da attribuire per uno, al massimo saranno 2 i seggi, e quindi il segno della politica legislativa della Casa Bianca cambierà inevitabilmente, bisogna contrattare con questo congresso, i fenomeni sono vari e diversi, a perdere è la parte muscolare democratica in Parlamento e del vecchio establishment, Nancy Pelosi, per capirci la vecchia portavoce, che obiettivamente è una delle autrici del blocco storico che era stato costruito in risposta alla strategia di Karl Rove negli anni del congresso repubblicano, e che però viene mandata a casa dagli elettori che dicono una regia troppo in mano delle elite democratiche e un po' troppo di segno liberal ma con troppa spesa pubblica non piace in campo democratico. Il giudizio è duro per il presidente, che come avete visto ha passato l'ultima parte della sua campagna elettorale con chiarissimi segni di non essere più considerato quella specie di tocco magico. Gli americani hanno scoperto che eleggere un presidente senza avere esperienza politica porta a quello che i democratici considerano un atteggiamento sbagliato, cioè non essere stato abbastanza tough, duro con i repubblicani. E questo è ciò che gli rimproverano molti commentatori, anche europei, che volevano una specie di regolamento rendiconto di conti nei confronti dei repubblicani. Dall'altra parte i repubblicani hanno avuto buon gioco a mettere sotto tiro gli effetti crescenti di quello che agli occhi dell'elettorato libertario americano, quello che vuole lo Stato limitato e che in questo identifica la vera Costituzione americana, la vera rivoluzione americana, dice: qui c'è troppo Stato che pagheremo per generazioni e gli effetti chissà quali saranno. Ma d'altra parte anche in campo repubblicano, lo sapete, le novità sono tante. Ci sono i candidati dei Tea Parties, nati un anno e mezzo fa dal basso. I giornali americani sono pieni di storie molto diverse da quelle dei giornali europei, che vi hanno descritto il fenomeno dei Tea Parties come degli esagitati pazzi, razzisti. Si tratta di cose partite veramente dal basso. Ieri c'era la meravigliosa storia riepilogativa sul Wall Street Journal di due donne, una di cui una perde il posto di lavoro, l'altra il marito perde il posto di lavoro, e dal basso iniziano a mobilitarsi, a mandare mail, internet. Alla fine diventano vanno alla testa di due dei più grandi comitati di raccolta di questa campagna elettorale, che è stata anche quella che nella storia americana ha visto la massima spesa nel midterm, più di praticamente 4 miliardi di dollari. Erano cambiate le norme per il sostegno elettorale, le aveva cambiate in quel caso la Corte Suprema, non la politica. L'effetto è che i repubblicani, sia quelli vecchio stile, Karl Rove e non solo lui, hanno mobilitato tutte le loro risorse per i candidati del vecchio partito, ma soprattutto è dal basso che questa volta è partita una campagna di segno opposto rispetto a quella che dal basso su internet aveva rappresentato la grande forza, il grande segno moltiplicatore di Obama. Un presidente che sicuramente vede gli americani oramai non solo delusi, ma vede praticamente metà degli stessi elettori dichiaratamente democratici dire che non è più convinto del fatto che debba essere automaticamente ricandidato per le elezioni, e vorrebbe che ci fossero primarie serie. Da sempre i democratici e coloro che tifano comunque per l'America di Obama ricordano che si può perdere al midterm e poi vincere clamorosamente, naturalmente, le presidenziali, come capitò a Clinton. Dall'altra parte i precedenti sono anche tanti, però, di presidenti americani che perdono al midterm e non vengono confermati, come Gerald Ford, come Bush padre. E quindi da questo punto di vista bisognerà vedere. Certo, gli interrogativi sono molti, c'è un grande impatto per il segno della politica americana nella questione economica, fiscale. È attesa per stasera, lo sapete, la riunione del Open Market Committee della Fed, che deve confermare o meno questa politica, che in pratica è la monetarizzazione del debito pubblico. Io sono molto critico verso queste banche centrali che assecondano la linea deficitista e di debito pubblico dei governi. Bisognerà vedere se verrà confermata. Di sicuro però le politiche fiscali e monetarie dovranno tenere conto degli americani che dicono stop, e questo avrà una ripercussione in tutti i paesi avanzati che avevano fatto troppo debito. A me convincono più paesi come il Regno Unito, che dicono: si taglia molto la spesa pubblica e il debito, e così si liberano energie per la ripresa. Ma poi c'è un problema che riguarda anche la politica mondiale, l'Afghanistan, eccetera, tutti i temi che in questa campagna del midterm non sono stati al centro dell'attenzione degli elettori. Per gli americani ha contato soprattutto il deficit e la disoccupazione questa volta, rispetto ai temi due anni e mezzo fa della campagna presidenziale americana, che erano stati tutt'altri, a dire il vero. Bene, vediamo i nostri ospiti per spiegarci questo voto americano dal loro punto di vista. Abbiamo innanzitutto Mattia Ferrari, corrispondente del Foglio dell'America, e che ha scritto qualche mese fa un libro molto bello. Se non l'avete letto e vi incuriosisce, vi prego davvero di leggerlo: Obama, l'irresistibile ascesa di un'illusione, scritto insieme a Martino Cervo. Mattia Ferraresi è in piedi negli Stati Uniti malgrado la differenza di fuso, e io sono grato a lui. Grazie Mattia. Grazie a te Oscar, buongiorno a tutti. E poi Stefano Silvestri, un decano, un punto di riferimento molto equilibrato e di lungo corso degli affari internazionali, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno a Silvestri. Buongiorno, come stai? Prima di addentrarci con Mattia nell'analisi interna del voto, partiamo da uno degli aspetti che forse è uno dei più trascurati con Stefano Silvestri di questo voto. Cambia, e se cambia come, anche il corso che era stato un po' confusamente impresso da Obama alle guerre aperte. Obama ci ha messo molti mesi a mettere a fuoco la strategia in Afghanistan, ha cambiato i comandanti, voleva iniziare il ritiro già l'anno prossimo. È evidente che i militari non sono per niente convinti, se non di dover compiere una missione ancora più lunga. Da questo punto di vista, per la NATO e per la guerra al terrorismo, questo voto ha un significato oppure è trascurabile, Silvestri? Ma un significato ce l'avrà, direi che ancora è un po' confuso. È chiaro che non c'è soddisfazione per la politica di Obama, non c'è soddisfazione tra i militari, ma non c'è soddisfazione neanche nel Congresso. L'impressione è che i repubblicani potrebbero andare in due direzioni contemporaneamente: da una parte appoggiare di più i militari, quindi diminuire la possibilità di Obama di in un certo senso di fare quello che aveva detto, di ritirare le truppe quando aveva detto, perché questa non è l'opinione dei militari, ma dall'altra anche aumentare la tendenza a dire: ma in fondo ormai questa guerra in Afghanistan la stiamo esagerando, spuntiamo troppo sullo state building, puntiamo troppo sugli aiuti economici, sugli aiuti politici, eccetera, dobbiamo ridurla più a una cosa semplicemente militare in cui dobbiamo ottenere qualche successo e poi sostanzialmente ritirarci. Non è che dobbiamo convertire gli afghani alla democrazia, che è una posizione stranamente opposta a quella originale di Bush, ma che sta diventando una posizione abbastanza maggioritaria. Questo potrebbe mettere in grossissima difficoltà Obama, non solo in Afghanistan ma anche in Pakistan. Per l'Europa invece, che cosa secondo lei, un discorso un po' delicato, l'Europa non è certo al centro delle attenzioni di questo corso politico americano, il G2 praticamente e non tanto il G20 lo strumento attraverso cui l'America regola i suoi interessi e soprattutto le sue paure, visto che il cambio dollaro yuan renminbi è quello sotto il cui segno poi si regolano gli eccessi e gli squilibri che persistono nel deficit commerciale della bilancia dei pagamenti dei due paesi, di segno naturalmente opposto. Però per noi europei questo voto invece che cosa vuol dire secondo lei, Silvestri? Ma per noi europei un paio di problemini ce li darà, perché anche se Obama non era un grande filo europeo, poi sostanzialmente che ne abbiamo pensato gli europei, ma diciamo un po' di problemini ce li potrebbe perlomeno dare, due direi soprattutto. Uno, degli Stati Uniti, che sono più attenti al debito pubblico, potrebbero insistere per un contributo maggiore europeo in tutte le questioni riguardanti la difesa, ma anche altre questioni di sicurezza e di politica estera, e questo significa maggiore spesa, questo significa pressioni su di noi e probabilmente un certo raffreddamento dei rapporti transatlantici. Due, questo Senato a 51 probabilmente democratici soltanto avrà maggiori difficoltà a ratificare il trattato START firmato da Obama e Medvedev, che potrebbe significare una certa maggiore freddezza con la Russia, e questo mette in difficoltà paesi come la Germania ma anche l'Italia. Ora, intanto grazie a Stefano Silvestri. Con Mattia Ferraresi iniziamo un pochino. Innanzitutto, come stanno le ultime nuove sugli aggiornamenti del Senato e dei governatori? A che numeri stanno, Mattia? Per quanto riguarda il Senato siamo ancora un guadagno netto per i repubblicani di più 6, ci sono ancora tre seggi in ballo che saranno decisi nei prossimi giorni, meglio nelle prossime settimane, perché per una serie di procedure ci sono state come l'Alaska, per cui ci vorrà tempo per lo scrutinio. E alla Camera c'è il guadagno netto è 59, che sono ancora 15 seggi indecisi da assegnare. Comunque, ragionevolmente, secondo le previsioni, è abbastanza preciso parlare di una sessantina di E quindi di deputati e almeno 6 senatori. Bene, allora dovessi dare dal tuo punto di vista il segno, i 2-3 segni prevalenti in campo democratico e in campo repubblicano, di chi sono i candidati, le vicende, tieni conto che naturalmente sai benissimo che per l'ascoltatore e per il lettore italiano nomi come quelli di Rubio, Carl Paladino che perde mentre Rubio vince, eccetera, eccetera, vogliono dire un pochino poco, purtroppo, cioè solo noi un po' malati d'America siamo in grado di capire davvero quali sono, di capire, di apprezzare un po' meglio la complessità delle vicende quando un fronte come quello democratico e quello repubblicano sono attraversati da tante tendenze contraddittorie come queste, ci sono fenomeni nuovi come quelli dei Tea Parties. Però dovessi indicare in campo democratico e in campo repubblicano quali sono da una parte il candidato che vince con la tendenza che vince di più da una parte e dall'altra, quello che perde invece da una parte e dall'altra. Chi indicheresti Mattia? Perché qui si è fatto un gran parlare dei Tea Parties, di cui ti parlerò con domanda a parte, ma la questione è: i repubblicani sono davvero, subiscono questi candidati nuovi o, come temono alcuni, la strategia poi vede il vecchio Karl Rove che raccoglie i miliardi, li utilizza e poi in realtà ne è un po' il burattinaio anche in vista della strategia delle presidenziali? E dall'altra parte, in campo democratico, questi candidati democratici che per vincere sono stati quasi più tosti di quelli repubblicani populisti, non fanno pensare che anche in campo democratico il populismo sia diventata la vera risposta alla delusione di un atteggiamento un po' troppo elitario di Obama? Come vedi le tendenze? Insomma, dovessi dire nei candidati che vincono e perdono di qua e di là, chi indicheresti? Guarda, in casa repubblicana senz'altro in Florida si vede l'esempio perfetto dei i due volti repubblicani. Al Senato ha vinto Marco Rubio, che è un giovane, un astronascente, 39 anni, di origine cubana, è sostanzialmente un candidato del Tea Party, come spirito, come affiliazione, come modo, cioè un candidato che è venuto dal basso, che ha argomenti assolutamente settati sullo small government. Però contemporaneamente è un volto ripulito, è una faccia pulita, è uno che sa parlare, non ha sicuramente argomentazioni come dire di piazza o cerca, diciamo, un approccio troppo rivoluzionario. Cioè non è un candidato di quelli che i giornali europei si sono divertiti a indicare come il vero candidato di Tea Party, cioè questa Chris O'Donnell del Delaware, che è stata fatta a pezzi perché un passato un po' strano, dedita a cose magiche, è una astensionista dal sesso, di cui poi sono usciti fuori classicamente sui giornali lì, che si dice: no, ma come, una volta alla festa in costume mi metteva le mani addosso, e così via. Chris O'Donnell ha perso nel Delaware, quindi lì la strategia dei Tea Party è troppo tosta, è stata un autogol. Però no, Marco Rubio non è una strega, per usare una battuta che va molto in America, appunto, su Cristiano O'Donnell. Dallo stesso tempo è il volto del Tea Party buono. Mi sembra che la tendenza in questo senso sia che dove si è presentato qualcuno, pur sostenuto dal Tea Party, pur entrando in questa narrativa dal basso, ha dimostrato di essere anche capace di, diciamo, maneggiare materiale politico molto delicato, è stato premiato. Chi invece, come Cristiano O'Donnell nel Delaware, non ha dimostrato di essere in grado di andare a Washington con una buona idea e anche con un modo di saperla sostenere, non è stato premiato. Per cui mi sembra che la tendenza di fondo, direi anche in maniera abbastanza naif, direi chi è capace è stato premiato, chi non è capace è stato premiato, non è stato premiato, anzi è stato punito. In Florida vedo un dettaglio in più, che è quello della fine di Charlie Crist, che è il governatore della Florida, che si è presentato come repubblicano, un repubblicano molto centrista e anche capace di apertura con i democratici, è stato spazzato via alle primarie da Rubio, che l'ha praticamente costretto a uscire dal partito, dandogli 20 punti di distacco nei sondaggi. Una volta uscito dal partito è iniziata la corsa come indipendente, è durata molto poco e Rubio ha preso più del 50% dei voti in una corsa a tre, quindi mi sembra un buon esempio di una certa tendenza. Sì. Posso chiedere a Stefano Silvestri la sua impressione di osservatore lungo corso anche delle cose americane? Di fronte a questa cosa dei Tea Parties, è una riedizione di un fenomeno che lui ha già visto di destra populista libertaria, oppure c'è qualche cosa di nuovo che lo ha colpito in questo anno e mezzo in cui questo è diventato un po' il segno inaspettato della risposta a Obama, Silvestri? Ma in un certo senso mi ha colpito questa capacità del Partito Repubblicano di mobilitare queste forze, sì, in parte populiste, ma in parte anche tipiche della cultura americana, della cultura politica americana. All'epoca di Bush la mobilitazione dei gruppi religiosi, in questo caso invece più che dei gruppi religiosi, anche se c'è di tutto naturalmente, più l'aspetto governo piccolo, no? Contro il governo federale, diciamo, per la diminuzione delle tasse, per la diminuzione dell'importanza del governo. Questo è un grosso segno di vitalità, ma anche un grosso segno di vitalità della vita politica americana, tutto sommato. Io non penso che ci sia dentro di tutto, certamente c'è dentro parte della cultura populista, certamente questi non sono fenomeni riesportabili facilmente in Europa assumono facilmente altri significati, però nel complesso dimostrano che nella società americana, in questo momento, soprattutto in quella che va a votare, c'è una mobilità abbastanza impressionante e molto interessante. Esatto, ed è prova di una vitalità di questa che poi resta, insomma, la democrazia, la cui costituzione e la cui dichiarazione di indipendenza, secondo me, continua a costituire, rispetto al modello di chi invece ama la rivoluzione francese, il modello preminente per chi ha un'idea che la libertà sia organizzata in costituzioni e principi per consentire al cittadino, cioè alla persona, di difendersi dallo Stato, non viceversa, non per considerare lo Stato etico di difendersi dai cittadini asservendoli. Pubblicità. Allora, molti ascoltatori chiedono giustamente di spiegare che cos'è questo fenomeno dei Tea Parties, di cui continuiamo a parlare, dando un po' per scontato, Mattia, che la gente in ascolto sappia di che cosa si parla. Naturalmente, quando si dice Tea Parties si fa riferimento al movimento di protesta al 1773, quello che è alla base dell'indipendenza delle colonie nei confronti della Gran Bretagna, e si chiama così perché fa riferimento al fatto che ci si incontrava appunto per il tè, quello naturalmente che tutti evocano poi, questa storia un po' più nota, a quando i primi rappresentanti del movimento secessionista contro le tasse imposte da Londra sulle colonie, ricordate, al porto di Boston, si presentarono e buttarono in acqua alcune casse per protesta. Allora, questo fenomeno indica un movimento politico che nasce dal basso, nasce fuori dalle i Political Action Committees, che sono la classica organizzazione territoriale locale, cioè comitati attivi su obiettivi concreti ma collegati alla struttura del Partito Democratico, del Partito Repubblicano. Invece questo movimento, che nasce dal basso, fortemente libertario, quindi chi chiede la limitazione dallo Stato troppo invasivo, non vuole il debito pubblico, chiede meno tasse e meno spese, ha la caratteristica di essere nato 2 anni fa animato dalle persone più varie e diverse che con la politica non avevano niente a che fare. Oggi sulla stampa, per esempio, sulla stampa di Torino, per chi volesse approfondire, trova una lunga storia che racconta alcuni di questi personaggi, come Jenny Beth, che era una che perdeva il lavoro mentre si salvavano le banche. Lei era repubblicana e, arrabbiata nera, si disse io devo fare qualcosa, perché non è possibile che il Partito Repubblicano, ai tempi di Bush figlio, quindi quando ci sono i salvataggi negli ultimi mesi dell'amministrazione repubblicana, dice: non è possibile che il partito per cui ho votato a me manda sul lastrico e milioni di americani perdono il lavoro, e mentre invece le grandi banche vengono salvati. E così trovate la storia di Stacey Mott, la mamma arrabbiata della New Jersey che gestisce il sito Smart Girl Politics, o quella di Amy Kramer, anche lei nel 2008 lasciò il lavoro e cominciò a occuparsi di politica sul suo blog, e oggi è diventata una star tardi questa campagna del midterm, facendo campagna in 30 stati, gente che in due anni, disoccupata, coi siti, con internet, è diventata l'animatrice di questo movimento, su cui poi molti in Europa dicono ah ma no, è tutta una roba nelle mani di marpioni, ci sono alcuni conduttori televisivi e radiofonici americani, altro fenomeno classicamente americano, che dicono ah ma questi sono i veri marpioni, sono gli orchestratori, i miliardi non arrivano certo dal basso ma arrivano dalle big corporations, ma nella realtà questo fenomeno dei Tea Parties è un fenomeno assolutamente bipartisan, perché molti di loro nei sondaggi si sono dichiarati non solo all'inizio scontenti dei repubblicani, ma i elettori indipendenti che non avevano votato per i repubblicani. Quindi questo fenomeno è un fenomeno che ci interroga sulla politica dal basso, è un fenomeno americano dove la radice libertaria, individualista e antistatalista è molto più forte che da noi, però è un segno di come possano cambiare i segni politici dei grandi paesi quando la gente non molla rispetto alla partecipazione, si organizza con internet dal basso, raccoglie soldi. Quindi per me da questo punto di vista è un esempio, e ho citato la stampa non a caso perché è collegato con noi, e io di questo molto le ringrazio, perché non è un tipo molto diciamo, non lo sentite tutti i giorni, il direttore della stampa, secondo me un grande direttore, Mario Calabresi. Buongiorno Mario. Buongiorno. E io chiedo al direttore della stampa, nella sua opinione, che cosa questa elezione può dire agli europei? Quindi al netto di quello che abbiamo già tentato di capire, la politica internazionale, i particolari interni di come si estrema. Però di fronte a questo che è stato per l'Europa e per l'Italia un mito molto forte, ancora oggi lo si capisce dai commentatori italiani, il segno per te che sei stato negli Stati Uniti qualche anno, qual è di questa elezione? Ma la cosa più affascinante che io trovo ci sia è la capacità di cambiare. Ai nostri occhi, per la nostra tradizione, perfino eccessiva. Noi, c'è gente che tutta la vita vota sempre lo stesso partito, sempre le stesse persone, non cambia mai, questa è una tradizione italiana, francese. Questa capacità invece di mobilità dell'elettorato americano, che non aspetta, non perde tempo, in un certo senso è impaziente, ma anche usa tutti i suoi strumenti democratici per cambiare le facce. E c'è sempre nel sistema americano comunque una capacità di riequilibrio. Questa cosa che sta uscendo, quindi del fatto che i democratici mantengono il Senato e i repubblicani invece stravincono la Camera, c'è in questo quel bilanciamento e quell'equilibrio che era nella Costituzione americana, per cui il Senato si rinnova ogni 6 anni e la Camera ogni 2, e c'è un bilanciamento tra le due cose, e forse è il risultato anche questo più interessante, perché se ci fosse stata in tutti e due i rami una vittoria repubblicana, forse avremmo visto i prossimi 2 anni di una paralisi per l'America, di uno scontro totale. Invece questo dovrebbe, io devo dire dal mio punto di vista, c'è da auspicarlo, una capacità di Obama di collaborare con i repubblicani e anche una capacità dei repubblicani di trovare dei punti, soprattutto sull'economia, sulla leva fiscale, dei punti in comune. L'ultima cosa che mi viene da dire è che si è visto che Obama ha perso tutte quelle in quei luoghi e in quei gruppi sociali che erano stati quelli che lui era riuscito a convincere solo all'ultimo momento, alle elezioni di 2 anni fa, e cioè la classe media bianca, gli anziani, le tute blu, i lavoratori, soprattutto quelli per esempio del Midwest o della costa est. E tant'è che forse molto della salvezza democratica, diciamo, al Senato è dovuto per esempio alla campagna fatta da Bill Clinton, perché se noi guardiamo la cartina e vediamo sovrapponiamo la cartina di oggi con la cartina delle primarie democratiche di 2 anni fa, di 3 anni fa, vediamo che dove Obama soffre è là dove la Clinton lo aveva battuto. E tant'è che una cosa incredibile è che in West Virginia, che è uno stato molto in difficoltà e anche, diciamo, abbastanza arretrato degli Stati Uniti, a est, a ovest di Washington, Vince un governatore democratico in una regione che si spostava invece fortemente verso i repubblicani, questo Joe Manchin, che è un, tra l'altro un italo-americano, ha cambiato il cognome suo padre che si chiamava Mancini, e vince, ma vince dopo aver fatto una campagna sostanzialmente anti-Obama, per cui un governatore democratico che vince perché fa una campagna prendendo fortemente le distanze dal presidente, da Washington. Oh, dal punto di vista invece della vittoria di chi vuole lo small government contro il big government, cioè vuole meno invadenza pubblica, meno Stato e meno tasse, c'è un segno che può rimbalzare anche su l'Europa, sull'intero mondo avanzato degli Stati Uniti, oppure no, secondo te? Ma diciamo che questo deve ancora, questo c'è come segnale degli elettori negli Stati Uniti, ma in questo momento non è ancora tradotto in politiche. Diciamo che la riduzione del governo, delle burocrazie e del deficit ce lo abbiamo molto più vicino, ad esempio, di quello di David Cameron in Gran Bretagna. Nel senso che la politica che sta portando avanti David Cameron è una politica molto forte e molto netta, e quindi ce l'abbiamo vicino casa. Cose che però sono assolutamente impensabili, mi sembra, da noi in questo senso, non parlo in Europa ma parlo in Italia, perché immaginatevi se ci fosse l'annuncio che in Italia vengono tagliati 5.000, 10.000, 50.000 dipendenti pubblici, che cosa succederebbe? Cameron ha annunciato che ne taglierà, se non ricordo male, 500.000. Sì, 490.000, sì. un'ultima domanda al direttore della stampa. Certo, hai ragione anche secondo me, cioè il figlio di Ron Paul, cioè Rand Paul, che vince le elezioni insieme a Rubio, di cui abbiamo già parlato, e sono forse i due candidati più rappresentativi di questa svolta che viene dal basso. Rubio in Florida è molto più mediato perché ha una capacità politica più raffinata, mentre invece Rand Paul, il figlio di Ron Paul, cioè uno che ha, il cui ultimo libro è End the Fed, chiudiamo la banca centrale, per capirci, è inipotizzabile nella nostra politica europea italiana. Viaggiavo nel appunto in Iowa o in Ohio, e c'erano i cartelloni alle scorse elezioni, alle primarie repubblicane di Ron Paul, il padre, esatto. C'erano questi immensi manifesti, esatto, in mezzo alle praterie con scritto: aboliamo le tasse, abbiamo l'ufficio delle tasse. Per me l'idolo. Però detto questo, ti chiedo una domanda. Io temo che figure come quelle di Ron Paul e di Rand Paul, che sono dei luminose, ma sono totalmente incomprensibili a casa nostra, però nelle mani di una parte dell'informazione europea diventano un po' dei simboli dell'eccezione americana. Gli americani sono un po' pazzi, perché non potrebbero mai prendere sul serio gente così se non fossero dei matti, gente che poi difende le armi, c'ha questa religiosità un po' pazzotica. C'è o non c'è ancora nell'informazione italiana un problema di mancata comprensione della radice profonda del libertarismo americano, che insieme alla parte liberal, ma sono i due aspetti costitutivi dell'identità politica, sì, dal basso? C'è indubbiamente tantissimo. Una cosa che è incomprensibile, per esempio, molto perché lo si legge, però lo si è letto per tanti anni con delle lenti ideologiche. È difficilissimo capire come una persona che si definisca, per esempio, libertaria possa essere contro la sanità, diciamo la riforma sanitaria di Obama, e quindi, diciamo, per semplificare, la sanità per tutti, preferisca l'idea delle assicurazioni e non sia contro la libera circolazione delle armi. Il punto invece è che c'è proprio una profonda idea di libertà, per cui io voglio usare i miei soldi, voglio usare quello che guadagno come voglio io, voglio essere considerato adulto e responsabile, per cui se io scelgo di usare i miei soldi per farmi l'assicurazione sanitaria, faccio l'assicurazione sanitaria. Se invece io con quei soldi mi voglio comprare una macchina, un'intera biblioteca oppure viaggiarci, devo essere libero di farlo, non deve decidere lo Stato di prendere i miei soldi per usarli per la sanità e indicarmi da quale medico di famiglia poi devo andare. Quando si è dibattuto, per esempio, sul fatto dei medici che venivano indicati dallo Stato, io ricordo che era ancora in campagna elettorale, di aver sentito gente che da noi sarebbe considerata molto di sinistra, inorridita, che diceva: ma il medico che decide magari della mia vita, della mia sopravvivenza, me lo scelgo io, non me lo può scegliere un burocrate statale. E questo ugualmente per le armi. Questo è stato molto difficile da capire in Italia, da comprendere. Detto questo, se guardiamo agli Stati Uniti, questi fenomeni sono stati anche molto poco compresi dai giornali tradizionali delle due coste, perché per esempio tutta la l'ondata neoconservatrice che c'è stata con George Bush, tutta quella l'area per esempio religiosa, non era stata assolutamente intercettata e compresa dai giornali come il New York Times o il Washington Post. E infatti, e quindi non abbiamo solo in Italia, in Europa, le pecche dell'informazione. Detto questo, io ringrazio il direttore della Stampa per il tempo che ci ha regalato stamattina, Mario Calabresi. Detto questo, non c'è dubbio che secondo me è proprio questa sottovalutazione costante nella politica europea, nella politica italiana, verso l'insopprimibile sete di difesa dell'individuo nei confronti dello Stato, che forse ci rende un pochino incapaci di capire poi perché la politica americana sia capace anche così spesso di cambiamenti di segno molto forti, di delusioni che vengono espresse con grande energia e con grandi spostamenti di maggioranza in congresso e con l'alternarsi dei presidenti. Cioè, essere convinti che l'uomo che fa lo Stato e non lo Stato che fa l'uomo è una visione totalmente alternativa a quella in cui, secondo me, si è un po' persa l'Europa continentale e si è molto persa, più dell'Europa continentale in media, il nostro paese. È l'uomo che fa lo Stato, non lo Stato che fa l'uomo. E l'uomo è in grado di capire meglio quale sia il miglior utilizzo dei propri risparmi, consumo, del proprio tempo di lavoro, di quanto del proprio capitale e reddito dare ai propri figli, a se stesso, e da donare nel terzo settore. Non è lo Stato con i suoi incentivi che deve decidere tutto questo, e noi invece viviamo in un paese in cui è lo Stato a decidere tutto, o comunque più, molto più della metà di quello che siamo, abbiamo, facciamo e vogliamo. Le informazioni statali. Molti ascoltatori mi rimproverano perché non faccio notare che in Italia i Tea Parties veri ci sono da noi da anni, non sono solo quelli minoritari, piccolini ancora, che si chiamano Tea Parties, ma è soprattutto Grillo e Grillini. Allora, io non vedo perché non ho parlato di Italia fino a questo momento. Comunque, di sicuro, certo, nella mobilitazione dei Grillini sono i Tea Parties, partono dal basso. No, parte da Grillo, è Grillo che si inventa il movimento, quindi è una cosa un po' diversa. Certo, è un altro esempio di movimento dal basso, fortemente connotato da una protesta verso chi esercita il potere. Vedremo se in Italia, al di là del fatto che ci sono dei gruppi di giovani molto attivi, ma ancora molto minoritari, sono visti poco, al di là delle energie che spendono l'organizzazione dei Tea Parties italiani, vedremo se in Italia c'è lo spazio per fenomeni dal basso di elettori del centrodestra, delusi e incazzati per 16 anni di promesse non mantenute. Io questo, devo dirvi la verità, me lo sentite dire spesso, perché mi chiedo come mai non partano, mi chiedo perché ci debba pensare io e i miei amici dell'Istituto Bruno Leoni a mettere in alcune piazze italiane. Stanno arrivando i contatori del debito pubblico privato e individuale, stanno arrivando perché forse è il caso che gli italiani capiscano quanto aumenta il debito pubblico, e cioè i 2.700 euro l'ora, lo vedrete sul contatore di 7.800, perché ogni 3 secondi si aggiorna. Per il momento lo trovate sul Chicago Blog e su Bruno Leoni. Però in realtà queste espressioni non fanno molta parte della politica italiana, perché per quanto siano saltati i vecchi partiti, in questa seconda repubblica, insomma, il partito carismatico con cui abbiamo avuto a che fare è un partito in cui le risorse finanziarie si fanno dall'alto, le campagne di mobilitazione che cambiano il segno nelle ultime settimane e che spesso hanno visto Silvio Berlusconi vincere quando tutti si aspettavano che fosse morto, e chissà che non riavvenga anche questa volta, non lo so, i suoi sostenitori pensano di sì, a me sembra che 16 anni bastino di promesse non mantenute. Però detto tutto questo, in Italia è molto difficile immaginare qualcosa di simile, ma non è impossibile. Allora, alcune domande sulle elezioni americane, però chiusa la parentesi italiana, e facciamo poi rispondere rapidamente Mattia Ferraresi. Cominciamo con Rocco da Torino. Prego, Rocco. Sì. Giannino, mi sente? Sì, dica, in fretta. Allora, buongiorno, senta, niente, io volevo intervenire riguardo a quello che commentava prima con Calabrese, riguardo alla capacità degli americani di cambiamento. Sì. Io devo dire che questa loro capacità è molto più facilitata dal fatto che loro comunque hanno un sistema elettorale completamente diverso dal nostro e comunque non hanno tutta questa serie di partiti e partitini che comunque anche nell'arco di poco tempo sono in grado solo di confondere e non di schiarire le idee agli elettori. Mi segue? Ecco, la seguo. Pensi a quanti in Italia vogliono tornare al proporzionale delle vecchie elite politiche, dicendo che così si evita che qualche cattivone di destra vinca una volta per tutte o qualche leader di sinistra troppo populista e non mediato dagli apparati possa vincere. Guardi che qua chi dice governo istituzionale, questo ha in testa. E io a quello dico che preferisco riandare a votare o governi di altro tipo. Ma il frazionamento l'ho visto sulla mia pelle quando facevo politica, non ne sono nostalgico. Sentiamo rapidamente Luciano da Venezia. Prego Luciano. Buongiorno, Giannino. Intanto esprimo la mia più grande ammirazione. Niente complimenti, andiamo al dunque. Certo. Allora, io sentivo con entusiasmo che lei descriveva questo movimento americano, però mi sono chiesto, ma non è escluso il federalismo perché gli Stati Uniti sono già stato federale, non sono i leghisti? Lei dice dal basso una cosa che ha rotto tutti i vecchi partiti in Italia, la Lega. Non c'è dubbio, la Lega quando tra fine anni 80 e primi anni 90 diventa la travolgente espressione di un moto dal basso, anche lì c'è un leader lungimirante, per quanto sfottuto perché incapace di ragionare e che mentiva sulle lauree, che è appunto Bossi, però in effetti anche questa è una buona osservazione. Mattia, una rapidissima conclusione perché ti mandiamo a dormire, ti abbiamo rubato troppo tempo. Sarà convergente l'agenda di Obama o sarà di scontro? Io credo che sarà convergente perché Obama adesso ha tutta la convenienza per venire a parte con il nuovo congresso, ne andrà della sua rielezione che io credo dopo la giornata di oggi è molto molto molto molto più vicina, cosa che le sequenze storiche dimostrano e tendenzialmente infatti anche la tranquillità di Obama in queste ore secondo me conferma abbastanza. Quindi Mattia Ferrarese ci dice che al di là di tutta questa la rielezione è più certa della sconfitta per Obama proprio per un'agenda di convergenza. Vedremo. Io francamente mi auguro novità anche alle presidenziali perché come dice alla fine la prima strofa dell'inno quello che è Land of the Free and Home of the Brave è un pochino secondo me il paese che dà il segno per chi ama la libertà del vero dibattito e delle vere scelte. Big Corporation, grandi interessi, ma anche democrazia che si fa dal basso. Grazie a Stefano Silvezzi, grazie a Matteo Ferraresi, grazie a Mauro Calabresi, qui come avete capito ci tagliano la linea, grazie in regia a Carmelo Lauricelli, ad Antonella Migliaccio in redazione, la linea al Generale Radio, appuntamento a domani.